qui ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, e discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Cooperare. 16:05, questa è Radio Onda Rossa. L'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Ricordati che devi conservare. 06 49 17 50, se ci volete chiamare e intervenire in diretta. Ora di buco @ondarossa.info per scriverci, e invece ora di buco .noblogs.org, il blog di questo spazio radiofonico su cui potete anche ascoltare tutte le puntate precedenti, oltre che trovare vari documenti. E mentre qua fuori onda si parla del fatto che la fotocopiatrice a scuola si è rotta di nuovo, che, come dire, sono conversazioni molto tipiche da corridoi e sale insegnanti. Tutto questo solo perché Renzi è primo ministro da poco, perché altrimenti le fotocopiatrici evidentemente funzionerebbero tutte, insomma. L'ultima puntata di questa trasmissione, insomma martedì scorso, abbiamo parlato delle iscrizioni alle scuole, a tutte le scuole, insomma, che sono chiuse, e nel senso che sono scaduti i termini per l'iscrizione per l'anno scolastico 2014-2015, e abbiamo visto anche un po', come dire, l'andamento alle iscrizioni nelle scuole superiori, insomma, e abbiamo visto l'altra volta, insomma, come uno dei dati era abbastanza visibile era che il liceo classico, insomma la storica istituzione introdotta da Giovanni Gentile, è impicchiata di iscrizioni, scende anche lo scientifico, sale il linguistico e tecnici in generale, più o meno avevamo visto questo, e avevamo promesso su questa scorta una canzone che purtroppo non avevamo a portata di mano martedì scorso, che è di una cantautrice romana e che si intitola "Ma non hai fatto il liceo classico". Ve la facciamo sentire immediatamente. Tu sei bella come Venere, tu conquisti più di Cesare, tu che mi riduci in cenere. Tu a letto sei una bomba, tu che sai ballar la samba, tu che a volte fai la bimba, tu che rompi tutti i patti, tu che fai diventar matti, tu sei dura e dolce a tratti, ma non hai fatto il liceo classico, non hai fatto il liceo classico, non hai fatto il liceo classico, tu sei di filosofia, di politica e di economia, di botanica e di geologia. Tu hai letto Pirandello, tu sai recitar l'Otello, tu Manzoni trovi bello, tu il computer sai usare, sì sì sì sì sì, tu ogni auto sai guidare, tu sai pure cucinare, ma non hai fatto il liceo classico, non hai fatto il liceo classico, non hai fatto il liceo classico, tu sai 4-5. Sì, sì, sì, tu hai la musica nel sangue, tu hai il ritmo che non langue, tu hai un cuore che non mente, no, no, no, no, no, no, no, no, non ti mancherebbe niente, una cosa solamente, che non hai fatto il liceo classico. La canzone che avete appena aspettato è di Luciana Proietti, che è una cantautrice che insomma non ha neanche così voglia di avere grandi notorietà, insomma, che si diverte a giocare con la chitarra e con le parole, ma noi abbiamo trovato questa canzone molto divertente e quindi ve l'abbiamo voluta far ascoltare. Yes, Bain ha fatto il liceo classico, ma non c'è, mi sembra, negli Stati Uniti. Ma no, no, il liceo classico c'è solo da così. E poi il discorso non è solo se ci stiamo prendendo in giro anche da per noi, non è che solo se hai fatto il liceo classico, dove l'hai fatto? C'era l'altra sera da Fazio, ma che tempo che fa, c'era Floris che ha scritto un libro e vabbè, ha scritto pure Valzanicchi, per cui Floris mi guarda, Fabrizio non lo sapeva, ha scritto un libro sugli anni 80, non mi ricordo, visti da lui però, e vabbè, insomma, una serie di amenità. Era Paninaro Floris nell'anno 80 e lui ci ha tenuto a dire che lui stava in un liceo storico della capitale, non vi dico quale, perché andato, sì, sì, ecco. Un liceo storico della capitale, addirittura ha detto che in quegli anni insomma c'erano un macello dentro scuola, colpi di pistola addirittura, no? Cioè si permette di dire queste cose, cioè che la gente si sparava dentro il liceo storico della capitale. A me mi sembra un pochino esagerato. Comunque, se questi sono i frutti del liceo classico, insomma vabbè, rivediamo anche certe convinzioni che magari qualcuno ha, però ribadisco, non basta avere fatto il liceo classico, lo devi avere fatto là. E quindi qua cascano parecchie pere, perché stavamo dicendo che qui l'hanno fatto in diversi, ma non so quanti ce n'è qua che hanno il blasone giusto. No, mi sa nessuno. Beh, io mi salvo perché non l'ho fatto, quindi. Ah, ecco. Apposta sai di matematica. E detto tutto ciò, passiamo a un argomento che stiamo trattando da qualche settimana, che vorremmo continuare a trattare, e cioè le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori delle pulizie nelle scuole. Stiamo parlando di chi lavora nelle cooperative, quindi nell'esternalizzazione di questo lavoro. È un momento molto complesso e anche, insomma, anche drammatico a tratti, almeno in alcune regioni, perché ovviamente non si sta trattando di una situazione univoca in ogni regione d'Italia. Abbiamo ospitato lavoratori e lavoratrici della Puglia, della Calabria, della Campania, del Lazio, e adesso vi facciamo ascoltare una telefonata realizzata qualche giorno fa, una corrispondenza con un lavoratore di Torino, sempre appunto su questo argomento. Allora, siamo al telefono con un lavoratore delle pulizie nelle scuole di Torino. Ci senti bene? Sì. Perché noi stiamo appunto cercando di fare un po' un panorama nelle varie regioni d'Italia, cosa sta succedendo rispetto a questa questione delle pulizie nelle scuole, con il nuovo appalto Consip e con la diminuzione, insomma, i tagli sui finanziamenti rispetto a questa specifica voce di bilancio. Ci vuoi raccontare cosa sta succedendo a Torino? Allora, a Torino nello specifico, innanzitutto c'è la questione dei tagli imposti alle direzioni didattiche, tagli che arrivano fino a un massimo del 70%, quindi di entità molto alta e quindi con conseguenze piuttosto pesanti sui lavoratori e sulle lavoratrici. Oltre a questo aspetto, c'è stato il fatto che alcune cooperative hanno vinto gli appalti che erano di altre, così queste hanno perso il loro appalto, i loro dipendenti hanno anche avuto il problema di farsi riassorbire dalle cooperative entranti. Allora, questo passaggio diciamo che è riuscito, non ci sono stati particolari problemi, anche se nel momento in cui allora, io faccio parte di una cooperativa entrante, nel momento in cui ci hanno proposto le nuove condizioni del contratto, considerandole particolarmente brutte, particolarmente difficili, abbiamo provato in un primo momento a rifiutare nella speranza di ottenere delle condizioni migliori. Poi, quando abbiamo avuto la paura proprio di non riuscire neanche a farci riassorbire, allora siamo stati costretti ad accettare queste condizioni che ci hanno imposto, per cui su questa riduzione delle ore ha anche giocato il ricatto lavorativo, ovvero la paura di non riuscire proprio a mantenere il posto. Questo è stato un aspetto che ha giocato a sfavore delle persone. E i contratti nuovi sono stati ovviamente molto molto peggiorati rispetto a prima. Vi do degli esempi: per esempio, una persona che faceva 38 ore è stata assunta con un contratto a 12, a 10, o una persona che ne faceva 20 è stata assunta con un contratto a 8. Ci sono addirittura dei casi estremi di persone che sono state assunte a 5 ore settimanali. Immaginatevi un po' cosa vuol dire, per lo più con una paga oraria già bassa, per lo più consideriamo che si esce da una cooperativa, si entra in un'altra e nell'altra si riparte da zero, per cui non si può neanche usufruire del livello acquisito con anzianità maturata nella cooperativa precedente. E c'è anche da dire che per legge una cooperativa dovrebbe assumere almeno 12 ore settimanali, per cui questi contratti non sono neanche legali, per cui adesso ci sarà il problema di riuscire a farseli regolarizzare. Chiaro che anche lavorare 12 ore settimanali, ammesso che riusciamo a vincere questa battaglia, anche lavorare 12 ore settimanali non è che sia un così grande risultato. Consideriamo che c'erano persone che magari ne facevano 35-30, si ritrovano a lavorare 12-13, significa che il loro orario è diminuito più della metà, il stipendio si sarà ridotto più della metà. E adesso bisognerebbe riprendere la lotta. A Torino c'è stato un presidio durato tre giorni davanti al palazzo del comune, con persone che si sono fermate proprio a dormire, alcune signore che si sono incatenate. Però dopo il risultato di quel presidio è stato solo una proroga delle attuali condizioni, una proroga di un mese, insomma, è come se... Cioè fino al primo aprile? Fino al primo aprile, poi c'è la speranza che la proroga si rinnovi ancora per tutto aprile, però è una speranza, e comunque prima o poi le nuove condizioni saranno instaurate, per cui sì, la proroga ti fa stare tranquillo un mese o due, ma poi il risultato non cambia. Diciamo che la vittoria di quel presidio durato tre giorni, dove le persone si sono incatenate, ci siamo fermati giorno e notte, risulta essere stata la proroga di un mese o due, e direi che come risultato è molto ridicolo, per cui bisognerebbe avere la voglia di rifare un presidio e provare a metterci un po' di determinazione in più, anche perché io ho anche constatato che le persone che erano in piazza spesso manifestavano in maniera un po' timida, un po' controllata, magari nella paura che uscire un po' fuori dai binari sarebbe stato controproducente, questa era un po' la mentalità dominante, e invece no, invece i fatti hanno dimostrato il contrario, hanno dimostrato proprio che lottando in una maniera così timida e controllata i risultati diventano davvero davvero ridicoli. Senti, adesso... parlavi di riprendere la lotta, ma avete delle forme di organizzazione, assemblee, coordinamenti, insomma, luoghi allora, dove organizzarvi? Beh, diciamo che è una lotta gestita dai sindacati confederali, dalla CGIL. Capisco che generalmente abbiamo simpatia per le lotte autogestite, questo sì, tendenzialmente chi fa riferimento a determinati circuiti preferisce le lotte autogestite, però purtroppo quello è un ambito dove non c'è un contesto umano propenso alle lotte autogestite, per cui inevitabilmente il riferimento diventano i sindacati confederali. E qual è la posizione dei sindacati confederali su questa questione? E la posizione, allora, i sindacati confederali, loro effettivamente parlano di riprendere la lotta, di rifare altre iniziative, e adesso quello che vogliono fare è di ottenere la regolarizzazione dei contratti, ovvero portarli a quel minimo di 12 ore. Però comunque anche nella gestione della piazza, comunque chi cercava di uscire un po' dai binari, chi cercava di fare qualcosa che alzasse la vibrazione era abbastanza controllato, non potevi uscire dai binari, mentre la mia idea personale è che se si crea un qualcosa che provoca rumore, che ha un certo impatto mediatico, secondo me ci sono più probabilità di ottenere dei risultati. Senti, abbiamo sentito persone che svolgono il tuo stesso lavoro in altre regioni, in Calabria, in Puglia, in Campania e qui nel Lazio, e anche che fanno riferimento, diciamo, a diverse sigle sindacali, parlando sempre di sindacati di base, quindi USB, Cobas, Slay Cobas, eccetera. E diciamo la prospettiva più ampia della lotta a questi altri lavoratori e lavoratrici che abbiamo sentito, la vedono nell'internalizzazione del servizio, cioè nella riassunzione come ATA delle persone, cioè come collaboratori, quindi come quelli che un tempo si chiamavano bidelli, per farci capire da chi ci ascolta, delle persone che adesso invece svolgono le pulizie nelle scuole come cooperative, come lavoro esternalizzato, insomma. Tu come la vedi questa questione? Beh, certamente quello sarebbe il risultato massimo, il risultato a cui ognuno aspirerebbe, però devo dire che a Torino ci sono stato molto dentro a questa situazione, mai nessuno ne ha parlato, né chi guidava la lotta né le persone. Tutte le persone dicevano quello che sto dicendo io adesso: sì, sarebbe bello fosse così, ma è una favola, nessuno ha mai avuto fiducia sul fatto che quello si potrebbe realizzare. Naturalmente il mio punto di vista è che aspirare a quell'obiettivo e partire aspirazione a quell'obiettivo, secondo me varrebbe la pena farlo, sarebbe un'operazione mentale audace, però secondo me forse partire proprio da lì non sarebbe sbagliato. Senti, la nostra trasmissione da cui ti stiamo chiamando si chiama Ora di Buco, ma Lavoratrici e Lavoratori della Scuola, proprio perché, come dire, come principio di fondo noi vorremmo, come dire, rivalutare la relazione tra le varie parti della scuola, quindi noi siamo i docenti, ma con noi fanno la trasmissione anche ATA e ovviamente abbiamo ben presente che ci sono persone che non ricevono lo stipendio dal MIUR, ma che come noi sono lavoratrici e lavoratori della scuola. Ti faccio questa premessa per chiederti se c'è una relazione a Torino tra voi e insomma il personale che riceve lo stipendio dal ministero. Allora, ci sono state delle persone, delle insegnanti che hanno cercato di battere questa strada, ovvero investire sull'unità tra le insegnanti, i genitori e il personale delle cooperative. Invece l'iniziativa, il tentativo di coinvolgere il personale ATA, i dipendenti statali che fanno bidelli e che fanno il bidellaggio e le pulizie, no, quella strada, a meno che io sappia, non è stata battuta. Quella di coinvolgere i genitori, sì, in effetti a una manifestazione alcuni genitori e alcune insegnanti sono venuti. Naturalmente in questo caso il terreno comune di coinvolgimento, il terreno comune sul piano degli obiettivi è abbastanza evidente, dal momento che se peggiorano le pulizie è anche un problema per le insegnanti e per i genitori. Per lo più c'è un ulteriore aspetto, che le persone che fino ad ora facevano le bidelle nelle cooperative, d'ora in poi non faranno più le bidelle, faranno quasi tutte le pulizie, per cui questo è un aspetto che innanzitutto è un peggioramento per queste persone e in più un peggioramento per la qualità della sorveglianza, perché stai parlando di primaria e materna? Primaria, io parlo di scuole elementari perché nello specifico, almeno le realtà con cui sono stato a contatto io, sono scuole elementari, né medie né materna. Quindi fino ad ora anche le bidelle, diciamo propriamente dette, spesso appartenevano a cooperative esterne, insomma. Sì, diciamo che queste cooperative esterne lavorano sia facendo le pulizie sia facendo le bidelle, ovvero sorveglianza e i vari lavori delle bidelle. Il problema è che quasi tutte le bidelle non faranno più le bidelle ma faranno le pulizie, per cui oltre ad essere un problema per loro si riduce anche lo standard di qualità della sorveglianza. Una mia previsione è che a peggiorare più che le pulizie sarà proprio la sorveglianza, perché le pulizie, se tu metti comunque tante bidelle, tante persone, tutte a fare 2 ore, bene o male, siamo in tanti, le cose si fanno, però se non ci sono più le bidelle a fare la sorveglianza, sarà proprio quell'ambito a patire di più, ci sarà meno sicurezza per i bambini, meno più disagi per gli insegnanti e così via. Questa è una previsione e d'altro canto può essere un terreno di coinvolgimento sul piano della lotta, perché in quel modo anche gli insegnanti e i genitori capiranno che le conseguenze di questa riforma, le conseguenze di tagli non le patiranno solo i dipendenti delle cooperative, ma le patiranno anche loro. Ecco. Senti, un'ultima domanda. Prego, dici pure. No. E appunto c'è stato questo tentativo, in realtà a essere sincera non è che sono venute tante persone tra gli insegnanti, però comunque io sono in contatto con quei rappresentanti sindacali e loro dicono comunque che stanno cercando di investire ancora su quell'aspetto, stanno cercando ancora di provare a coinvolgere le insegnanti e i genitori, ecco. Senti, prima di chiudere ti faccio un'altra domanda che ci riporta all'inizio di tutto il ragionamento. Tu dicevi che alcune cooperative ne hanno sostituite altre, ma questo dipende dal bando Consip? Sì, perché c'erano alcune cooperative affiliate che hanno potuto entrare per una sorta di diritto, quelle che non lo erano non hanno potuto, quelle che non lo erano hanno provato a entrare in subappalto. In subappalto significa che devono pagare una sorta di affitto alle cooperative entranti. La conseguenza è che queste cooperative in subappalto avranno ancora meno soldi delle altre, perché devono anche pagare l'affitto a quelle che entrano, avranno meno soldi loro e meno possibilità di dare una retribuzione dignitosa a per loro. Senti, noi ti ringraziamo per questa tua partecipazione e insomma i microfoni di Radio Onda Rossa rimarranno attenti a questa questione, quindi magari ci potremo risentire insomma con il mese nuovo per capire come sta andando. Sicuramente, io faccio tutto molto volentieri, sia per coinvolgimento personale ma anche per idealismo, per cui faccio tutto volentieri. Ok, grazie a voi. Ciao. Alla prossima. Ciao. I am leaving this harbor, giving urban afar. E appunto avete ascoltato questo lavoratore da Torino. È anche molto complesso rapportarsi a questa vicenda che sta togliendo salario, posti di lavoro e ancora di fatto è ancora un taglio sulla scuola. È molto difficile perché con questo meccanismo della esternalizzazione si sono create infinite situazioni diverse, o perlomeno 20 diverse, almeno una per regione, ecco. Quindi è difficile vederla come è una lotta unica, però è fatta in tanti modi diversi perché le situazioni che si sono create sono tutte diverse. Sì, il quadro però può essere riassunto con questa Consip che fa da grande contenitore anche un po' pericoloso e il cui obiettivo è appunto esternalizzare il lavoro e rendere precaria già la vita di alcuni, diciamo già precaria dei collaboratori e come dire risparmiare laddove non si dovrebbe, perché abbiamo sentito che come dire, direttamente coinvolte sono le pulizie delle scuole, però come diceva chi è appena intervenuto, il problema poi ricade sulla scuola perché lì c'è un taglio, se queste cose vengono esternalizzate, la pulizia, c'è possibilità molto forte del taglio sul personale ATA, ovvero diciamo i bidelli in particolare. E allora la domanda è, risparmiamo sulle pulizie, tanto in qualche modo no, si può fare anche da soli le pulizie probabilmente, quindi no, possiamo spingere i genitori, le famiglie a farlo da sole. chi di noi non ha detto o aiutato i propri studenti a dire no, raccogli quella carta, buttala via perché non è educato. Sì, ma quello si questa tratta si può estendere. Dire, questa cosa si può estendere sì. all'infinito, no? Allora si può far leva sul fatto che tu non sporcare, dove c'è sporco pensaci tu, oppure allentare il ruolo che ha il personale, cioè di sorveglianza, di anche no, supporto ai docenti. Ho presente un insegnante che veniva dall'Irlanda e si sorprendeva del fatto che erano presenti nella scuola superiore, nei licei, queste persone che stavano così per i corridoi. Dice: ma chi sono questi? Beh, sono i bidelli, una figura storica nella nostra istituzione della scuola. E in realtà questo insegnante diceva: da noi non esistono i bidelli, perché i ragazzi vanno tranquillamente in giro da quando, diciamo, dall'età, diciamo, più già dalle scuole elementari, sostanzialmente al liceo assolutamente non esiste nessuno di questo. Beh, forse l'obiettivo è quello, no? Se siamo alla ricerca di modelli per la scuola, un modello per certamente risparmiare è non avere più dei bidelli. A che servono i bidelli nella scuola? Dire una parola su questo, effettivamente riflettendoci non è che abbia una grande esperienza, però nelle scuole private io credo che non esista la figura del bidello. Ci sono ditte delle pulizie che fanno le pulizie a scuola chiusa e poi i ragazzi stanno in una scuola controllati dagli insegnanti, controllati da presidi, vicepresidi eventualmente, ma la figura del bidello io non credo che esista negli istituti gestiti in questo modo. Comunque anche per chi non è addentro alla a come funzionano le scuole, in realtà i collaboratori scolastici fanno molto altro, perché spesso fanno anche i badanti, come mi ha detto un collega, nel senso che per esempio danno, cioè, stare al centralino, quello qualcuno lo deve fare, e contemporaneamente fare poi tutto il resto, le pulizie eccetera. Poi l'estensione dell'orario scolastico o l'apertura del pomeriggio per esempio, alcune persone arrivano, alcuni amministrativi arrivano a scuola anche alle 7:30 per esempio, questo nelle scuole elementari per chiamare i supplenti giornalieri è diffuso, per cui già fare le pulizie è veramente problematico, con anche la flessibilità, l'orario su 5 giorni degli uffici eccetera. E poi per esempio fanno tutta una serie di cose, le fotocopie, in questo senso dicevo che fanno i badanti, perché perdonatemi, ma per quanto si metta la tessera sulle fotocopiatrici non è che tutto il personale insegnante è così, insomma, sveglio da questo, bisogna che lo dico, da riuscire a non sfasciare la fotocopiatrice o quantomeno a usare una tessera e così via, insomma. Poi comunque questo rientra sicuramente in un discorso più vasto. Allora, c'è una tendenza negli ultimi anni di aumento delle iscrizioni nelle scuole, si è invertito un pochino, no, il trend che c'era precedentemente col calo della natalità. E però questo non ha corrisposto, come logica vorrebbe, a un aumento dell'organico, ma invece a una corrispondente diminuzione dell'organico, sia per l'innalzamento degli alunni e delle alunne per classe, sia perché ci sono stati i famosi tagli lineari sul personale ATA, che invece è legato al numero di iscrizioni. Il discorso è sempre quello generale delle esternalizzazioni, e si fa un calcolo che per ogni posto accantonato di collaboratore scolastico, che mediamente costa 15.000 euro lordi, e si spende diverse migliaia di euro in più, che ovviamente non vanno nelle tasche di chi fa le pulizie, no? Ma vanno, cioè non si capisce perché tu devi usare un'intermediazione. Si capisce quando la tendenza è quella di diminuire il personale in genere del dipendente pubblico. E quindi a quel punto, come poi è successo in questi anni, perché 10 anni fa chi sta in segreteria sa che, o anche chi insegna, perché lo vedeva, i colleghi e le colleghe che erano annuali, anche i supplenti temporanei che erano di più, oggi siamo a un calo verticale di supplenze, no? Quindi queste persone non le devi licenziare, semplicemente non le devi richiamare, perché altrimenti poi non si capisce perché tu vai a spendere di più. Sì, c'è un discorso anche di clientele, di amici degli amici, di far mangiare questi potentati delle cooperative, che ormai sono diventati questo a livello di gestione, ovviamente. E però il succo è questo, che poi non devi nemmeno licenziare se c'hai una persona stabilizzata che va in soprannumero, come diciamo noi, sì. Cioè il posto non ce l'ha più, alla fine la devi sistemare da qualche parte, anche se magari per anni girerà da una sede provvisoria all'altra. Se è un precario, una precaria, questo problema non te lo poni, certo. Ed è di oggi comincia a uscire qualche cosa su questo tagliatore di teste, che non mi ricordo come si chiama, il commissario praticamente della Cottarelli della Spending Review, perché ormai sì. Che ha parlato di 85.000 esuberi nella pubblica amministrazione, sì. Quindi di un blocco del turnover che di fatto già c'è, perché ogni 10 pensionati se ne possono assumere 2. Nuove assunzioni, e di fatto poi è questo il succo. Mettiamoci anche che tutto questo parlare, per esempio, di reddito, Renzi ne ha parlato ampiamente anche nelle interviste, probabilmente prefigura una situazione di persone che, a fronte di un sussidio di sopravvivenza, perché disoccupate, andranno a fare lavori che di fatto fanno, cioè lavori veri e propri. Quindi niente da meravigliarsi se poi li mandano a fare per esempio le pulizie nelle scuole oppure da altre parti, perché lui l'ha detto chiaramente: io se ti chiamo tu mi devi dire che vieni, perché bisogna vedere, allora assumimi, no? Questo sarebbe la logica. E quindi praticamente un esercito di semischiavi che però sottrae lavoro, fra virgolette, ovviamente, ovvero nel senso che poi quei posti non sono più messi a disposizione né di loro né di nessun altro. Insomma, questa poi è la logica, un mercato del lavoro estremamente flessibile, ma nel senso che intendono loro, cioè quasi veramente a livello di schiavitù, e su questo poi tutto il Jobs Act anche è estremamente chiaro, ne abbiamo parlato insomma quasi ogni mattina da questi microfoni e sicuramente ancora ne parleremo, va tutto inquadrato in questo, insomma, in questa dimensione più generale. Sì, e fra l'altro insomma, su questa questione abbiamo sentito da questi microfoni altre lavoratrici delle pulizie che ci facevano notare come in alcune regioni, stiamo parlando del Lazio e della Puglia, si arriva a lavorare 3 ore al giorno, un'ora al giorno, e però ugualmente non sei disoccupata con questo meccanismo, e quindi non puoi nemmeno usufruire di quegli stracci di ammortizzatori sociali previsti per la disoccupazione. Quindi insomma c'è anche questo da aggiungere rispetto alla Consip. Insomma, mi è stato illustrato il caso dell'Emilia Romagna, che mi sembra emblematico proprio perché regione rossa nel senso della storia del Partito Comunista PDS-PD, e quindi anche di una certa storia delle cooperative che adesso insomma sono talmente, come dire, una lobby che hanno anche un ministro, quindi mi sembra che tutto ciò sia molto chiaro ed evidente. In Emilia Romagna non ci sono lotte in questo momento delle lavoratrici e dei lavoratori delle pulizie, perché il problema è già stato risolto a monte, cioè il bando Consip è stato vinto in tutta la regione da Manutencoop, che è una grande cooperativa legata al gruppo Coop. Quindi di fatto hanno perso gli appalti le altre cooperative, quelle più piccole, per cui i lavoratori e le lavoratrici di Manutencoop non hanno perso il posto, ma se prima pulivano in 6 ore una scuola, adesso in 6 ore puliscono 3 scuole, mentre hanno perso il posto quelli delle cooperative più piccole. E quindi di fatto questo meccanismo Consip, che doveva essere un meccanismo, almeno così era stato propagandato, di razionalizzazione, di fatto ha fatto fuori l'auto-organizzazione in partenza, ma anche le piccole cooperative, per dare spazio a grossi colossi, che poi si chiamino cooperative o si chiamino SPA, il meccanismo rimane quello. Non so se forse mandiamo un pezzo musicale e ci pensiamo e ci riflettiamo. Comunque continueremo a parlare di questa vicenda, anche perché il 31 marzo scade la proroga e quindi vedremo cosa succederà. I feel cooped up, I wanna bust free. got nothing to lose if you give me. Like a Taliban trucker eating balled up yucca. Keep my eyes down like I'm in a black burqa. I've been through shit, yeah, it's Africa. But now I make tunes say shaka-laka-laka. Shaka-laka-la, shaka-laka-lee. Shaka-laka-laka-laka-laka-laka-laka-me. If you check me, I check you. If they kick you, then I back you. Say something new, say something cool. Give you my time, but I ain't no fool. Laka-aka-eye, break a picket jaw. Every time, so I'ma step to my toe. I fight the ones that fight me. I really love Allah, I really love Allah, I really love Allah, I really love Allah, but I fight the ones that fight me. But I fight the ones that fight me. I fight the ones that fight me. But I fight. The ones that fight me. Who's in town? Them not like me, men not like them. Da who jin thou? Instead of them, I got a newfound gem. Someone I can love up like men. That Obama needs to love up Chen. Like a hand-me-down sucker throwing bombs at a mecca. Call it good, we'll get money to get better. Keep your head down like a UNICEF worker. If you get hit, you can't question a fucker. How can I come out? Yeah, but why? If I be the F, who the F be the I? If you met me, then you get me. But if you get me, will you get a fee? Shit's meant to be free, where's Bob Marley? Cause I won't turn my cheek like I'm Gandhi. I fight the ones that fight me. I fight the ones that fight me. I really love Allah, I really love Allah, I really love Allah, I really love Allah, but I fight the ones that fight me. But I fight the ones that fight me. I fight the ones that fight me. I fight the ones that fight me. Quindi torniamo ai microfoni, questa è Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco e è rimasto un quarto d'ora, quindi adesso insomma fra il serio e il faceto vi diamo una notizia che per noi è bella, è un po' vecchiotta, non siamo riusciti a trattarla nelle scorse settimane, c'è uno storico, così dicono perché io non l'avevo mai sentito nominare, un altro storico liceo, questo però è scientifico ed è cattolico. È il FA di Bruno di Torino che l'8 marzo appunto ci informa la cronaca locale che deve chiudere, non ci sono più le condizioni economiche per andare avanti e in realtà non sono riusciti a formare nemmeno una prima classe l'8 marzo, quindi a ridosso della chiusura delle iscrizioni che era appunto la fine di febbraio. E insomma è veramente divertente perché i genitori hanno messo su le barricate, io non so se a Torino qualcuno se ne è accorto e addirittura hanno deciso quasi insomma, di formare una cooperativa, non so bene, pure loro, per mandare avanti questa scuola. Il discorso qui lo lega poi a un altro fatto di cui parleremo, però il discorso è che è una scuola privata e se la gente non ci va, avete voluto il libero mercato, libero fra virgolette, perché poi sappiamo le sovvenzioni. È drogato. E quindi in realtà è così, se non c'è la domanda l'offerta chiude e il calo degli iscritti dice infatti è la piaga che ha colpito l'istituto al centro di un'animata polemica lo scorso novembre per le elezioni poi annullate sulla famiglia minacciata dall'ideologia gender. Conferenze destinate ai genitori e tacciate di omofobia dai critici, ma sono presentata così, non lo so come non si possa tacciare di omofobia, io non so se le due cose siano collegate perché non so quanto un genitore che manda in questa scuola il figlio o la figlia si possa sentire insomma preoccupato da questa cosa. Il problema è che dentro a questa struttura scolastica c'è anche una materna che è poi sovvenzionata, ne abbiamo parlato tanto, coi soldi del comune e quindi insomma adesso al di là della proposta, allora qui è molto divertente perché gli insegnanti hanno proposto di formare una cooperativa per mandare avanti la scuola, gli studenti pensano di scrivere al Papa e tanto non, perché non a napoletano. Magari poi gli telefona al Papa, però, capito? Napoletano invece non telefona. No, però sì, cioè, giustamente nella scuola cattolica scrivono al Papa. Poi questo fa di Bruno è un... non so, adesso non lo ritrovo più, ma insomma era un santo. Ah, ecco, era Beato Francesco Faddi Bruno, santo sociale e scienziato. Sì. E quindi le famiglie si appellano all'arcivescovo. E quindi insomma poi e invece c'era questo fatto precedente che qui si mette in collegamento, se ne vuoi parlare tu. Scusate, prima ne parli, ma perché si può essere religiosi e scienziati? Pensavo che fossero in contraddizione. Come padre Agostino Gemelli, padre della psicologia, boh. Ma non so, 1633 Galileo, no? Vogliamo parlare del processo. Vabbè, ora ti vai a ripescare queste cose pure ti. Sì. Ha chiesto perdono, sì, 1990. Per Galileo, ha chiesto perdono per tutta la gente bruciata che sarà molto felice. Non so, Giordano Bruno forse era fuori dalla lista del perdono. Comunque, no, io credo che non ci sia un legame, cioè mi piacerebbe che ci fosse un legame dal fatto che una scuola che organizza un ciclo di conferenze sulla bellezza della famiglia tradizionale minacciata dall'ideologia gender. Adesso l'insulto da oggi è gender, adesso poi vi dico dove lo possiamo leggere, e il fatto che le famiglie non vogliono iscrivere i propri figli in quella scuola. Mi piacerebbe molto che, diciamo, un mondo, il futuro possa succedere questo. Io non credo, semplicemente la gente non vuole andare più lì, credo, e quindi Suor Stefanella e la preside si dovranno dar da fare, forse più che il Papa o pregare o fare cooperative, dico, basterebbe chiamare, alzare il telefono e chiamare lui, no? Renzi, dico. Ah, certo, no, quello sempre. C'è il telefono. O Twitter, un tweet sì, ad Renzi. Twitter che forse per spiegare a chi ci ascolta, perché parlando di scuola e preti, spesso si fa, ora negli ultimi tempi si parla spesso di teoria gender, perché loro che evidentemente non sono alfabetizzati la sintetizzano in questo modo, perché almeno ci direi del gender, ecco, io in italiano, però loro dicono teoria gender, intendono, allora, gender è una parola inglese, che significa? Genere. Dietro ci sono una serie di pensatrici, soprattutto di ambito femminista e queer, che hanno, usando la parola gender perché parlano inglese e quindi lo dicono in inglese, hanno costruito insomma opere filosofiche che chiariscono che le caratteristiche dei generi non sono naturali ma sono costruite socialmente e culturalmente. Ecco, è a questo che si contrappone la Chiesa Cattolica, al fatto che si dica che le donne fanno le pulizie non per natura ma per cultura, cioè per acquisizione sociale, culturale. Anche perché gli uomini non le fanno, qualcuno ma non le fanno, non è che non le fanno perché non le vogliono fare, ma per natura, secondo i preti. E quindi questo è quello che loro chiamano con teoria gender, detto proprio in tre parole, è questo, detto in tante più parole si può leggere per esempio nei libri di Judith Butler, ecco. Sì, non credo siamo a questi livelli, anche se magari c'è chi le studia, tra Toccafondi, il sottosegretario e gli altri, però in realtà loro adesso gender è diventato un insulto, comunque un'etichetta, tipo no, lacista, che è diventato frocio, vuol dire frocio, sì, infatti frocio. e quindi si con libri gender si vogliono fare riferimento a dei libri in cui si presentano per esempio tutte le famiglie, oppure si presentano tutti gli orientamenti sessuali dalle elementari fino alle superiori, questo è libri gender. Le scuole che vogliono fare progetti su questo sono scuole gender, e quindi sono molto pericolose. A questo proposito andate a leggere tutti i comunicati stampa del numero 2 del Ministero dell'Istruzione, Toccafondi, che è l'unico sottosegretario riconfermato nel governo Renzi, che invita a non essere ideologici su questo argomento, perché lo può essere soltanto lui, diciamo, e quindi lui continuamente sta facendo la battaglia anche contro i libri, contro opuscoli, e più che altro, se andiamo a vedere tutte le sue proposte di legge, tutti i suoi tentativi di togliere dalla Costituzione la parola, la frase senza oneri per lo Stato, che ancora dà fastidio, tutte le richieste per sulla detraibilità delle spese per le frequenze nelle scuole paritarie, tutti la richiesta di contributi aggiuntivi sulle scuole paritarie, che stanno avendo ottimo ascolto, in questo governo possiamo capire che per noi una scuola di questo genere che chiuda è una buona notizia. No, poi per aggiungiamo che a questa conferenza, insomma, era stata invitata un'infettivologa, già questo insomma parla da solo, tale Chiara Azzori, sì. Considerata negli ambienti integralisti cattolici la Nicolosi italiana, dal nome del medico statunitense inventore della cosiddetta terapia riparativa per curare con il convincimento psicologico l'omosessualità. Luca era gay, non so se vi ricordate la canzone di Povia, no? Sì, sì, certo, ma poi Povia è legato a ambienti di comunione e liberazione, e questa storia ha parlato anche in Campidoglio, insomma una cosa non organizzata dal Comune di Roma ma da associazioni di questo circuito, a cui però il Comune di Roma ha dato la sala per parlare. E per aggiungere una cosa, non essere ideologica, non sono ideologica, è un'informazione. Domenica scorsa, perché i cattolici si muovono di domenica, c'è stata la, dice, tradizionale manifestazione Andem al Dom, che sarebbe la manifestazione a Milano delle scuole cattoliche che si sono ritrovate in piazza del Duomo a Milano, dove è intervenuta l'assessora all'istruzione della regione Lombardia, che non so se vi ricordate chi è, ve lo ricordate chi è l'assessora all'istruzione nella regione Lombardia? No. Aprea, Valentina Aprea. La quale Valentina Aprea dice che insomma, innanzitutto che la scuola paritaria è il frutto della passione educativa di laici e religiosi, ma soprattutto dopo ha detto in piazza che lei è riuscita a mantenere lo stanziamento regionale per le scuole paritarie, cioè per le scuole cattoliche, nonostante i pesanti tagli dei trasferimenti statali al bilancio regionale, cioè l'allevate da quelle pubbliche, ma da quelle private non ha levato una lira, e se l'ha rivendicato in piazza. Questo direi che sulla manifestazione Andem al Dom non c'è altro da dire, ma siccome mancano 6 minuti alla fine, darei invece una notizia più recente, sempre sulla follia condivisa. No, noi ovviamente oggi è martedì, domani è mercoledì mattina, quindi sappiamo tutti che dobbiamo fare molta attenzione chi va nelle scuole, sia come a lavorare che a accompagnare, a studiare, eccetera. Attenzione, domani mercoledì mattina. Cosa succede il mercoledì mattina ormai da 15 giorni che Renzi visita una scuola? Potrebbe essere la vostra, attenzione. Oh, speriamo. Io mi auguro che vada a Lecce, cioè lontano da qui, da Roma, a Lizzanello in particolare, perché c'è una scuola, un istituto comprensivo, primaria e secondaria di primo grado, che lo aspetta. Nel senso che probabilmente non gli studenti, non gli docenti, ma la dirigente, certamente, è la dirigente che... suo malgrado, a sua insaputa forse, è passata, diciamo, agli onori della cronaca come la dirigente che ha emanato una circolare nella quale chiede ai docenti e alle docenti di evitare di toccare gli studenti al fine di tutelare la sicurezza di tutti. Ora, non lo so, penso che voi conosciate questa circolare, che diciamo pubblicata sul sito della scuola, perché la trasparenza impone che quasi tutte le circolari vengano pubblicate e lette da tutti, e quindi è stata letta anche dalla stampa, che ha dato notizia di questa cosa. E che sarà mai successo in questa scuola perché la dirigente comunichi che i docenti saranno sanzionati, i docenti trovati a toccare gli studenti e le studentesse saranno sanzionati? Evidentemente qualcosa. In realtà è la nostra malafede, la nostra cattiveria che... La nostra pruderie, tanto che diciamo nottetempo, il giorno durante la notte, la preside ha emanato una seconda circolare a tutti gli organi di informazione con preghiera di diffusione. Noi la diffondiamo. Le circolari non vanno agli organi di diffusione, vanno a quelle cose. È un comunicato stampa. In effetti, sì, è un comunicato stampa protocollato il 15 marzo 2014 con preghiera di diffusione. Noi lo diffondiamo. E così recita: in seguito alle notizie diffuse a mezzo web in merito alla circolare comportamento verso gli alunni e le alunne, la dirigente Bruna Morena, si può dire? Bruna Morena. Il personale lei, scolastico, sì. E il corpo docente, tutti questi, tutto il corpo, l'intoccabile corpo docente, chiariscono, vabbè, e sottolinea per il bene dei bambini e la tranquillità dei genitori che non vi è mai stato alcun episodio di violenza o abusi sugli alunni. La circolare emessa dalla scuola è solo uno strumento per tutelare lo stile educativo e la formazione scolastica degli alunni frequentanti l'istituto. Ripetiamo, Lizzanello e Merine, Foggia e Lecce. La lettura della circolare in maniera decontestualizzata, di fatto, a me non si capisce qual è il contesto della circolare se non quella scuola, ha messo in luce una realtà immaginaria ed aspetti estremi che non erano stati assolutamente presenti. Il personale scolastico è condiviso con la dirigenza questo, sa perfettamente che non sarebbe mai sanzionato per una carezza sul capo del bambino o una stretta di mano come saluto di incontro o di congedo o di congratulazione per un bel risultato. Lo scappellotto per il brutto, però forse sì, non lo so, il ruolo dell'educatore, eccetera, eccetera. Il senso di legalità, non so, alla fine la scelta della dirigente è condivisa dal personale scolastico, dai genitori, dall'amministrazione comunale addirittura. Tutti condannano questa interpretazione da gossip della circolare, che è oltretutto fortemente lesiva per la serenità dei nostri bambini. A me la cosa più grave mi sembra che lei pensi che se qualcuno ha pensato a abusi e violenza sugli studenti fosse un gossip. Questo mi sembra tra tutto la cosa più grave di questa circolare di queste due circolari demenziali. Detto questo, 16:59, scusa, chiudiamo. Che numero porta la circolare? Protocollo 1. No, non c'è un numero di circolare. No, però è protocollato. Sai perché lo chiedo? Per capire la produzione di circolari, no? Perché nelle scuole ovviamente c'è una produzione dei circolari infinita, quindi già dal numero si capisce. No, siamo 1634 circolare 1, però potrebbe sì, il protocollo, però. Vabbè. Quindi mi raccomando, domattina tutti attenti e attente nelle scuole, tante volte arriva Serenzi. La canzoncina è pronta. La canzoncina è pronta a martedì prossimo. Ma no, la nostra, quella di Renzi.